ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Il 6 novembre intrapresi una lunga passeggiata con Lince lungo un sentiero sconosciuto. Il mio senso dell'orientamento è poco sviluppato. Tendo ad andare sempre nella direzione sbagliata. Tuttavia, quando mi smarrivo, Lince finiva sempre con riportarmi a casa. Oggi percorro solo le vecchie piste abituali, altrimenti per ritrovare la strada dovrei tracciare dei segni sugli alberi. Del resto non ho alcun motivo di vagare senza meta nel bosco. La selvaggina si sposta lungo i passi di sempre e la strada del campo o del prato accanto al ruscello la trovo a occhi chiusi. Eppure, sebbene mi rifiuti di ammetterlo, senza Lince sono diventata prigioniera di questa conca. Quel 6 novembre, un giorno soleggiato e freddo, potevo ancora concedermi un'escursione in territorio sconosciuto. La neve si era sciolta e il fogliame ramato ricopriva i sentieri, lucido e scintillante d'umidità. Mi arrampicai su per un'altura, attraversando uno scivolo per il legname che fradicio e pericolosamente sdruccioloso portava a valle. Poi raggiunsi un piccolo altopiano ricoperto di faggi e fitto di abeti, dove riposai un attimo. Verso mezzogiorno il sole forò la nebbia scaldandomi la schiena e questo mandò in estasi Lince, che prese a saltarmi addosso pieno d'entusiasmo. Sapeva che non si trattava di una battuta di caccia, non avevo portato con me il fucile, poteva quindi prendersi qualche libertà. Aveva le zampe fradice e sporche e mi lasciò qualche foglia e un po' di sabbia appiccicate al cappotto. Alla fine si calmò e andò a bere in un minuscolo rivolo, il quale probabilmente portava acqua solo ora a causa della poca neve che si era sciolta. Come sempre, quando mi trovavo a camminare nel bosco con Lince, sentii una certa calma quasi allegra diffondersi in me. Non avevo altro scopo se non quello di procurare un po' di moto al cane ed evitare a me stessa di abbandonarmi a riflessioni sterili. Camminare nel bosco mi distraeva da me stessa. Mi faceva bene procedere con passo lungo e regolare, guardarmi attorno e respirare l'aria fredda. Costeggiai il piccolo ruscello in discesa. L'acqua si ridusse a un filo e finii per proseguire lungo il greto perché a ogni tentativo di scostare le frasche per aprirmi un varco nella vegetazione che invadeva il sentiero, una doccia d'acqua gelida mi scendeva per la nuca. Lince dava segni di impazienza e aveva preso l'espressione di quando era di servizio. Stava seguendo una traccia. Mi precedeva senza far rumore. Il tartufo rasoterra. Si mise in ferma davanti a un piccolo anfratto semi nascosto da un cespuglio di nocciolo che l'acqua aveva scavato lungo l'argine e segnalò la sua scoperta. Era eccitato, eppure non gioioso come di solito quando scovava la selvaggina. Allargai i rami grondanti e nella penombra della caverna, addossato alla parete rocciosa, vidi un camoscio morto. Era un animale adulto che nella morte aveva un aspetto singolarmente esile e minuto. Potevo riconoscere distintamente lo sfogo biancastro della rogna che gli ricopriva la fronte e gli occhi come un fungo malefico. Un animale reietto, solitario, sceso dagli alti ghiaioni, dai pini nani e dai rododendri per rintanarsi cieco e moribondo in quella caverna. Lasciai ricadere i rami e scacciai Lince che sembrava incline a un'ispezione ravvicinata. Obbedì solo di malavoglia, esitando a seguirmi nella discesa a valle. Tutto a un tratto mi sentii stanca, desiderosa di tornare a casa. Lince s'era accorto che quella cosa morta coperta di rogna mi aveva contrariato e abbassò mesto la testa. La nostra escursione, così gioiosa all'inizio, si concluse in un ritorno silenzioso l'uno accanto all'altra, fin quando il rigagno lo sfociò miracolosamente nel ruscello abituale, costringendoci a tornare a casa attraverso la gola. Una trota stava immobile nella pozza fangosa e a quella vista mi vennero i brividi. Le rocce della gola avevano un aspetto freddo e sinistro e del sole quel giorno non mi accorsi più, perché quando arrivammo a casa si era da tempo nascosto dietro un velario di nebbia. L'umidità della gola si posò sulla mia faccia come un panno bagnato. Sugli abeti si erano radunate le cornacchie. Ai latrati di lince si dispersero svolazzando per tornare a posarsi sugli alberi più distanti. Sapevano benissimo che quell'abbaiare non significava un pericolo. A lince le cornacchie non piacevano e cercava sempre di scacciarle. In seguito finì per accettarle a malincuore e si dimostrò più tollerante. Io non ho nulla contro le cornacchie e cedo loro i magri rifiuti della cucina. Qualche volta, quando sparavo un capo di selvaggina, i pasti erano abbondanti anche per loro. In fondo sono dei begli uccelli, col loro piumaggio cangiante, i grossi becchi, gli occhi neri scintillanti. Spesso trovo una cornacchia morta nella neve. La mattina dopo è già sparita. Potrebbe averla presa una volpe. Forse la volpe che ferì a morte Perla. Le avevo trovato tracce di morsi sul corpo, ma la cosa peggiore fu una lesione interna. Ai morsi sarebbe sopravvissuta. Una volta, doveva essere durante il primo inverno, vidi una volpe ferma a bere vicino al ruscello. Aveva il manto invernale grigio-bruno cosparso di brina biancastra. Nella quiete assonnata di quel paesaggio d'inverno aveva un aspetto di grande vitalità. Avrei potuto spararle, portavo con me il fucile, eppure non lo feci. Perla era morta perché uno dei suoi antenati era stato un gatto d'angora iperselezionato. Era la vittima predestinata di volpi, gufi e martore. Avrei per questo dovuto punire quella bella volpe piena di vita? Perla aveva subito un'ingiustizia, ma la stessa ingiustizia aveva colpito anche le sue vittime, le trote. Dovevo trasferire tutto ciò sulla volpe. L'unica creatura in grado di agire veramente in modo giusto o ingiusto nel bosco sono io. E solo io posso esercitare clemenza. A volte desidererei non essere gravata dal peso della decisione, ma sono un essere umano e posso pensare e agire solo come tale. Solo la morte mi libererà da questa condizione. Quando penso inverno, vedo sempre la volpe bianca di brina ferma al ruscello innevato. Un animale adulto, solitario, che percorre il suo cammino predeterminato. Quell'immagine mi sembra allora contenere un significato importante per me. Quasi fosse solo il segno di un'altra cosa, di cui però non riesco a cogliere il senso. Quell'escursione in cui Lince aveva scovato il camoscio morto fu l'ultima dell'anno. Ricominciò a cadere la neve e ben presto mi arrivò alle caviglie. Mi occupai del mio piccolo focolare e di Bella. Ora dava un po' meno latte e ingrassava a vista d'occhio. Cominciai seriamente a sperare in un vitello. Spesso me ne stavo sdraiata, senza poter dormire, e consideravo tutte le eventualità. Se a Bella fosse successo qualcosa, anche le mie prospettive di sopravvivenza sarebbero notevolmente diminuite. Se poi fosse nata una vitellina, sarebbero comunque rimaste limitate. Solo la nascita di un vitello maschio poteva farmi sperare di sopravvivere nel bosco per un periodo più lungo. A quel tempo speravo ancora che un giorno mi avrebbero trovata, ma per quanto mi era possibile, rimuovevo qualsiasi pensiero rivolto al passato o a un futuro distante, per occuparmi solo delle cose immediate, il prossimo raccolto delle patate e i succosi prati dell'Alpe. Il pensiero di un trasferimento estivo sull'Alpe mi occupò per intere serate. Lavorando meno all'aperto, dormivo meno bene. La sera andavo dunque a letto più tardi, un riprovevole spreco di petrolio, per leggere le riviste di Luise, gli almanacchi, i romanzi gialli. Le riviste e i romanzi mi vennero presto a noia e presi sempre più gusto agli almanacchi. Continuo a leggerli anche oggi. Tutto quello che so sull'allevamento del bestiame proviene da quegli almanacchi. Anche le storie che contengono e che un tempo mi avrebbero solo fatto ridere, mi piacciono sempre di più. Alcune sono commoventi, altre impressionanti, specialmente una, in cui il re delle anguille perseguita un contadino sadico con gli animali, per poi strangolarlo in circostanze drammatiche. Questa storia è veramente meravigliosa, e leggerla mi mette molta paura. Ma allora, durante quel primo inverno, di quelle storie non sapevo che farmene. Nelle riviste di Luise c'erano lunghe descrizioni di maschere cosmetiche, pellicce di visone, collezioni di porcellana. Alcune delle maschere consistevano in una pappa di miele e farina e mentre leggevo venivo presa ogni volta da una gran fame. la cosa che preferivo erano le ricette di cucina magnificamente illustrate. Un giorno, comunque, avendo molta fame, andai su tutte le furie, sono sempre stata incline all'irascibilità, e bruciai tutte le ricette di slancio. L'ultima cosa che vidi fu una ragosta presentata sopra una base di maionese contorcersi tra le fiamme che la stavano divorando. Fu una cosa molto stupida da parte mia. Con quella carta avrei potuto avviare il fuoco per 3 settimane invece di sprecarla tutta in una sera. Infine, smisi di leggere per dedicarmi al mio solitario. Mi tranquillizzava e maneggiare quelle figure sudice e familiari mi distraeva dai miei pensieri. A quel tempo avevo semplicemente paura dell'attimo in cui dovevo spegnere il lume per andare a letto. Per tutta la sera quella paura sedeva al tavolo con me. La gatta a quell'ora se n'era già andata e Lince dormiva nella nicchia della stufa. Ero tutta sola con le mie carte e la mia paura. E ogni sera dovevo pur decidermi ad andare a letto. Scivolavo quasi sotto il tavolo per la stanchezza, ma appena mi coricavo nel silenzio e nell'oscurità, tornavo completamente sveglia e i pensieri mi piombavano addosso come uno sciame di calabroni. Alla fine, quando mi addormentavo, incominciavo a sognare per svegliarmi piangendo e poi tornare a immergermi in uno di quei sogni terrificanti. Per quanto vuoti fossero stati i miei sogni fino a quel momento, a partire dall'inverno erano diventati sovraccarichi. Sognavo soltanto morti, perché perfino nel sogno sapevo che non esisteva più nessun essere vivente. Quei sogni avevano sempre un inizio innocuo e menzognero, eppure sapevo fin dal principio di dovermi aspettare qualcosa di terribile. E l'azione scivolava inesorabilmente verso quell'attimo in cui i volti familiari si pietrificavano e io mi svegliavo tra i gemiti. Piangevo fino al momento in cui riprendevo sonno e calavo giù verso i morti, sempre più giù, sempre più in fretta, fino a svegliarmi con un grido. Durante il giorno ero apatica e stanca e Lince tentava disperatamente di ravvivarmi. Perfino la gatta, in apparenza sempre tutta assorbita da se stessa, mi offriva qualche piccola brusca affettuosità. Non credo che sarei sopravvissuta a quel primo inverno senza quei due. Fu un bene che dovessi per forza occuparmi ancora di più di Bella, la quale si era ingrossata al punto che dovevo aspettarmi vitello da un giorno all'altro. Si era appesantita e aveva il fiato corto e tutti i giorni le dicevo qualche buona parola per farle coraggio. I suoi begli occhi avevano preso un'espressione inquieta, affaticata, come se si preoccupasse della sua condizione. Ma forse era solo frutto della mia immaginazione. Così la mia vita si suddivideva in notti terrificanti e giorni giudiziosi, durante i quali riuscivo appena a tenermi in piedi dalla stanchezza. I giorni strisciarono via uno dopo l'altro. Verso metà dicembre l'aria si fece più calda e la neve si sciolse. Tutti i giorni andavo nella riserva con Lince, mi aiutava a dormire un po' meglio, anche se continuavo a sognare. Mi resi conto che la rassegnazione con la quale mi ero dal primo giorno adattata alla situazione era stata solo una specie di droga. Ora l'effetto si dissolveva e reagivo in modo assolutamente normale alla mia perdita. Le apprensioni per le mie bestie, le patate, il fieno che mi assalivano di giorno le sentivo adeguate alle circostanze, perciò sopportabili. Sapevo che ne sarei venuta a capo ed ero disposta ad occuparmene. L'angoscia che mi assaliva di notte mi sembrava per contro del tutto sterile. Un'angoscia causata da qualcosa di passato e di morto che non potevo richiamare in vita e a cui l'oscurità notturna mi consegnava senza difese. Probabilmente nel rifiutare con tanto accanimento di confrontarmi col passato peggioravo io stessa la mia situazione, ma questo allora non lo sapevo ancora. Il Natale si avvicinava sempre più e io ne avevo paura. Il 24 dicembre fu un giorno senza vento, coperto e grigio. In mattinata andai con Lince nella riserva, ben contenta che almeno non ci fosse la neve. Non era ragionevole da parte mia, ma a quel tempo un Natale senza neve mi sembrò più sopportabile. Mentre me ne andavo così di buon passo lungo i sentieri consueti, i primi fiocchi si staccarono dal cielo per calare lentamente nel silenzio. Sembrò quasi che anche il tempo congiurasse contro di me. Lince non riusciva a capire come mai non mi estasiassi a vedere i fiocchi librarsi sempre più numerosi nel cielo ovattato. Per amor suo tentai di apparire allegra, ma non ne fui capace, e così il cane mi trotterellò a fianco afflitto e a testa china. A mezzogiorno, quando mi affacciai alla finestra, gli alberi erano già spolverati di bianco e la sera, andando alla stalla, il bosco si era trasformato in una foresta natalizia e la neve asciutta scricchiava sotto i miei passi. Improvvisamente, accendendo il lume, mi resi conto di non poter continuare così. Fui presa da un violento desiderio di cedere e di abbandonare le cose al loro corso. Ne avevo abbastanza di continuare a fuggire, volevo affrontare la realtà. Andai a sedere al tavolo e abbandonai le difese. I muscoli irrigiditi si rilassarono e il cuore prese a battere lento e regolare. La semplice decisione di cedere pareva fare il suo effetto. Ricordai il passato con molta lucidità, cercando di essere obiettiva, senza trasfigurare né denigrare ciò che era stato. È terribilmente difficile essere obiettivi verso il proprio passato. In quella realtà remota, il Natale era stata una bella festa, piena di mistero, fin quando, ancora piccola, avevo creduto al miracolo. Più avanti, il Natale era diventata una festa allegra, in cui venivo colmata di doni da tutte le parti, facendomi pensare di essere il centro della casa. Nemmeno per un attimo avevo pensato a cosa quella festa potesse significare per i miei nonni o per i miei genitori. L'antica magia s'era un poco incrinata, continuando a perdere poco a poco il suo splendore. In seguito, fin quando le mie bambine furono piccole, anche la festa si rianimò, ma non per molto. Le mie figlie erano meno sensibili di me all'incantesimo e al mistero. E poi il Natale tornò a essere una festa allegra in cui le mie bambine venivano colmate di doni da tutte le parti, facendo loro credere che tutto ciò avvenisse per amor loro. E infatti era veramente così. E ancora poco più in là, il Natale cessò di essere una festa, trasformandosi in un giorno nel quale, per abitudine, ci regalavamo degli oggetti che prima o poi si sarebbero dovuti comunque comprare. Il Natale per me era già morto allora e non quel 24 dicembre nel bosco. Mi resi conto di averlo temuto fin dal giorno in cui le mie bambine avevano cessato di essere delle bambine. Non avevo avuto la forza di infondere nuova vita a quella festa morente e oggi, dopo una lunga serie di notti di Natale, mi trovavo sola nel bosco con la mia mucca, un cane e una gatta, senza possedere più nulla di quanto per 40 anni aveva formato la mia vita. La neve ricopriva gli abeti, il fuoco crepitava nella stufa e tutto era come in origine avrebbe dovuto essere. Solo non esistevano più bambini e non accadeva alcun miracolo. Mai più sarei corsa da un negozio all'altro a comprare oggetti inutili. Non ci sarebbe più stato un gigantesco albero addobbato a seccare lentamente nella stanza riscaldata invece di crescere e verdeggiare nel bosco. Nessuno scintillio di candele, nessun angelo dorato e niente canti soavi. Quando ero bambina cantavamo sempre a correte bambini. È rimasto il mio canto di Natale segreto, anche quando per qualche ragione non lo si cantava più o solo raramente. Dove erano andati tutti quei bambini, trascinati da quelli che si erano lasciati trascinare nel nulla di pietra? Forse ero l'unico essere al mondo a ricordare quell'antico canto. Qualcosa che era stato concepito bene, con cura, era degenerato finendo in modo terrificante. Non avevo il diritto di lagnarmi, ero altrettanto innocente o colpevole quanto i morti. Per quante ricorrenze l'umanità abbia inventato, c'è sempre stato un uomo col quale la memoria di una festa si è estinta. Con me si estingue la festa dei bambini che accorrono. In futuro un bosco coperto di neve non significherà null'altro che un bosco coperto di neve e una greppia nella stalla null'altro che una greppia nella stalla. Mi alzai per affacciarmi alla porta. Il bagliore del lume cadde sul sentiero e la neve sui piccoli abeti scintillò di riflessi dorati. Desiderai che i miei occhi potessero scordare cosa quell'immagine aveva significato per tanto tempo. Qualcosa di assolutamente nuovo era in attesa dietro ogni oggetto. Solo non riuscivo a vederlo, perché avevo la mente ingombra di vecchia roba e gli occhi incapaci di riadattarsi. Avevo perduto il vecchio senza acquisire il nuovo. Mi era inaccessibile, sebbene lo sapessi presente. Non so perché questo pensiero mi riempisse di una timida, fragile gioia. Dopo molte settimane mi sentii un poco rianimata. Infilai le scarpe per recarmi ancora una volta nella stalla. Bella si era accovacciata e dormiva circondata dalla sua calda, pulita esalazione. Il suo pesante corpo assopito irradiava pazienza e bonarietà. E così l'abbandonai e tornai a casa affondando nella neve. L'ince, che mi aveva seguito all'aperto, sbucò da dietro un cespuglio e io chiusi la porta a chiave dall'interno. Il cane saltò sulla panca e mi poggiò la testa sulle ginocchia. Gli rivolsi qualche parola e vidi che la cosa lo rendeva felice. Nella tristezza delle ultime settimane si era meritato la mia attenzione. Capii di avermi di nuovo tutta con sé e di potermi raggiungere col suo guaire, ansimare e leccare di mani, e ne fu molto contento. Infine si stancò e si addormentò profondamente. Si sentiva al sicuro. Il suo padrone era tornato a lui da un mondo estraneo nel quale non aveva potuto seguirlo. Stesi il mio solitario, affrancata dalla paura. Che la notte fosse buona o terribile, volevo prenderla come veniva, senza opporle resistenza. Alle 10 spinsi cautamente da parte l'ince, radunai le carte e andai a letto. Rimasi a lungo distesa al buio a contemplare con occhi assonnati il riverbero rosa che dalla stufa cadeva sul pavimento scuro. I miei pensieri andavano e venivano liberamente e continuavo a non sentire paura. Sul pavimento i riflessi smisero di danzare e per i tanti pensieri mi girò un poco la testa. Adesso sapevo quali fossero stati gli errori e come avrei potuto fare meglio. Ero molto saggia, solo che la mia salvezza giungeva troppo tardi. E se anche fossi nata saggia, non avrei potuto nulla contro un mondo che saggio non era. Pensai ai morti e provai una grande pena per loro, non perché fossero morti, ma perché in vita avevano trovato così poca gioia. Pensai a tutte le persone che avevo conosciuto e le pensai con piacere. Erano parte di me fino alla fine della mia vita. Dovevo conceder loro un posto sicuro nella mia nuova esistenza se volevo vivere in pace. Presi sonno e scivolai giù dai miei morti e fu diverso dai sogni precedenti. Non avevo paura, ero solo triste e questa tristezza mi riempì fino all'orlo. Mi svegliai perché la gatta era saltata sul letto stringendosi a me. Avrei voluto allungare una mano verso di lei, ma scivolai di nuovo nel sonno per dormire senza sogni fino al mattino. Al risveglio mi sentii stanca ma soddisfatta. Quasi mi fossi liberata di un pesante lavoro. Da lì in avanti con i sogni andò meglio. Incominciarono molto lentamente a impallidire fin quando fui riassorbita dal giorno. Per prima cosa notai che la mia provvista di legna s'era ridotta. Il tempo era grigio e non troppo freddo. Decisi così di approfittare dei giorni propizi per occuparmi della legna. Trascinai i ciocchi facendoli slittare sulla neve e incominciai a segarli. Avevo voglia di lavorare, d'altronde non potevo prevedere come si sarebbe comportato il tempo. Potevo ammalarmi, poteva sopraggiungere il freddo impedendomi di tagliare la legna. In breve tempo le mie mani tornarono a ricoprirsi di bolle, che dopo qualche giorno tuttavia si trasformarono in calli, cessando così di farmi male. Dopo aver segato abbastanza legna, mi accinsi a spezzettarla. Un giorno, essendomi distratta un momento, mi procurai una ferita sopra il ginocchio con l'ascia. Non era profonda, eppure persi molto sangue e mi resi conto di quanto dovevo essere prudente. Non mi fu facile, ma mi abituai. Chiunque viva solo nel bosco deve abituarsi alla prudenza se vuole restare in vita. La ferita sopra il ginocchio avrebbe richiesto una sutura e mi lasciò una larga cicatrice rigonfia che continua a dolermi quando cambia il tempo. Ma a parte questo, ebbi molta fortuna. Tutte le ferite che mi procurai guarirono rapidamente, senza infezioni. A quel tempo possedevo ancora dei cerotti. Oggi le fascio semplicemente con un pezzo di stoffa e guariscono ugualmente. Nel corso di tutto l'inverno non mi ammalai una sola volta. Ero sempre andata soggetta ai raffreddori e tutto un tratto sembrai esserne completamente guarita. E questo, sebbene non potessi riguardarmi, a volte tornassi a casa fradicia e stremata. Le emicranie, di cui avevo spesso sofferto in passato, non erano più comparse dall'inizio dell'estate. Ormai la testa mi faceva male solo se la urtavo contro un ciocco di legna. Naturalmente la sera mi capitava spesso d'avere tutte le ossa e i muscoli indolenziti, soprattutto dopo aver segato la legna o trascinato il fieno su per la gola. Non sono mai stata molto robusta, sono solo tenace e resistente. Poco a poco scoprii quante cose potessi fare con le mie mani. Le mani sono un attrezzo meraviglioso. Talvolta mi mettevo in mente che se al lince fossero improvvisamente cresciute le mani, avrebbe ben presto incominciato anche a pensare e a parlare. Naturalmente ci sono ancora molti lavori che non riesco a svolgere. D'altra parte, solo a 40 anni ho scoperto di possedere delle mani. Non mi si deve chiedere troppo. Il successo maggiore, certo, sarebbe riuscire a sistemare correttamente la porta nella nuova stalla di Bella. I lavori di falegnameria continuano a crearmi grandi difficoltà. Sono invece piuttosto abile nell'agricoltura e nella cura del bestiame. Tutto quanto riguarda le piante e gli animali mi è sempre parso chiaro, anche se non ho mai avuto occasione di sviluppare questo talento naturale. Sono del resto i lavori che mi procurano maggiore soddisfazione. Segai e spezzettai la legna per tutta la settimana di Natale. Mi sentivo bene e dormivo un sonno profondo, senza sogni. Durante la notte del 29 dicembre fece molto freddo. Dovetti smettere e ritirarmi in casa. Tappai le fessure di porte e finestre, sia in casa che nella stalla, con delle strisce ritagliate da una vecchia coperta. La stalla era una costruzione robusta e per ora Bella si trovava al riparo dal freddo. Anche lo strame, sistemato sia all'interno che sopra la stalla, tratteneva la maggior parte del gelo. La gatta detestava il freddo e nella sua piccola testa rotonda incominciò ad attribuirmene la responsabilità. Mi puniva con sguardi imbronciati, pieni di biasimo, esigendo tra i lamenti che io ponessi fine a quell'indecenza. L'unico a restare indifferente al gelo era Lince, ma lui del resto accoglieva con gioia qualsiasi genere di tempo. Era solo un po' deluso che con quel freddo glaciale non avessi voglia di andare a spasso e mi sollecitava con insistenza a intraprendere qualche piccola escursione. Ero in ansia per la selvaggina. La neve superava il metro e nessuno più provvedeva al foraggio. Possedevo due sacchi di castagne d'India avanzate dal foraggio dell'anno precedente che intendevo conservare per me stessa in caso di estrema necessità. Poteva anche succedere. Un giorno mi sarei potuta ritenere fortunata ad avere delle castagne d'India. Al perdurare del gelo però vacillai, incapace di distogliere il pensiero da quei due sacchi nella camera da letto. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlene Haushofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.